Mangiare una gallina è come mangiare un dinosauro. Guardali le zampe e poi ne riparliamo. Anch'io la mangio, ma almeno lo so. Ed esserne consapevoli è già qualcosa. Mangiare un coniglio è come mangiarsi un gatto. Tant'è che chi è allergico a uno è anche allergico all'altro. Anch'io lo mangio, ma almeno lo so. Ed esserne consapevoli è già tanto. Quando l'uomo dalle gambe dico com'ero, ebbe voglia dico com'ero, lui si mangiò. Quando l'uomo dalla pancia dico com'ero, ebbe voglia dico com'ero, lui si mangiò. Quando l'uomo dalla testa dico com'ero, ebbe voglia dico com'ero, lui si mangiò. Quando l'uomo dalla schiena dico com'ero, ebbe voglia dico com'ero, lui si mangiò. Mangiare un maiale è come mangiare Alessandro. Ascoltatevi la canzone e capirete il perché. Anch'io lo mangio, ma almeno lo so. Ed esserne consapevoli è davvero importante. Mangiare un uccello è come mangiarsi il vento. Una frase così in questa canzone non ha alcun senso. Ma io la canto perché almeno lo so. Ed esserne consapevoli è già qualcosa. Quando l'uomo dalle gambe dico com'ero, ebbe voglia dico com'ero, lui si mangiò. Quando l'uomo dalla pancia dico com'ero, ebbe voglia dico com'ero, lui si mangiò. Quando l'uomo dalla testa dico com'ero, ebbe voglia dico com'ero, lui si mangiò. Quando l'uomo dalla schiena dico com'ero, ebbe voglia dico com'ero, lui si mangiò. Mangiare un pesce è come mangiarsi il mare. Una frase così in questo pezzo non ci può stare. Ma io la canto perché almeno lo so. Ed esserne consapevoli è già qualcosa. E larga la foglia, stretta la via, racconta la tua che ho già detto la mia.